anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! Buttercup, don't break my heart. E bentornati, benvenuti, bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat per un lieto, si spera lieto, sabato sera qui sulle frequenze della M e sulle onde delle web radio. Siamo qui a Basement Records con un nuovo carico vinilico portato qui dall'amico e dall'ospite di stasera, che lo ringraziamo subito in apertura per essere passato qui da noi e a portarci delle chicchine notevoli che a brevissimo ci ascolteremo. Qui in mezzo a noi Michele! Ciao a tutti, ciao! Vedo che ci hai portato veramente una grandissima crema di vinili e mi raccontavi appunto le storie di dove sei andato a recuperarli e del perché e del per come. Beh, fondamentalmente faccio il pasticcere, no? Quindi certo, la crema mi viene facile. Giustamente, no, perché poi pasticcere in senso lato, perché poi come appunto ascolteremo dalle sue parole, da come sono arrivati questi vinili qua nelle sue mani. Però come sempre, prima di fiondarci a capofitto tra i solchi vinilici, ricordiamo i canali per mettersi in contatto qui con noi di Radio Wombat. La frequenza per la zona di Firenze in AM, in onde medie o in onde mediocri, come diciamo noi, tra gli aficionados, è 1359-1359 sulla vostra autoradio o radiolina. E il nuovo sito è radiowombat.net. Spero ormai l'abbiate imparato e che l'abbiate già ampiamente visitato, il nuovo scintillante sito di Radio Wombat. La nostra mail è sempre postawombat@insiberia.net per non dimenticarti mai dove finirai se sbaglierai a Radio Wombat. Bella roba, a surgelare. E i nostri canali social, che se ne dica, siamo moderni anche noi, quindi su Radio Wombat, sui canali social e su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radiowombat. Firenze, benissimo, vedo già questo vinile completamente bianco e ti ho già detto che già tirato delle bestemmie che rapporto ho con i vinili colorati, però mi raccontavi appunto che questo era il tuo disco perfetto per l'apertura, perché è un po'... Sì, diciamo che insomma nella storia che contraddistingue il mio avvicinamento alla musica suonata, questo è un po' quel disco che mi ha cambiato, mi ha bloccato le sinapsi al cervello fondamentalmente. Quando l'ascoltai la prima volta non capii nemmeno se mi poteva piacere o meno, è stato talmente una botta di adrenalina e di sonorità che mi hanno sconvolto, che è stato proprio, insomma, da qua sono iniziate tante cose. Però penso che sia più corretto ascoltare prima qualcosa e poi sì, si dilunga in chiacchiere. Va bene, perfetto. Allora, prima ascoltiamocelo questo disco che ha folgorato la vita qua del nostro Mitch. E allora, Queens of the Stone Age, qui a Radio Wombat Firenze. Questa è sempre, naturalmente, Basement Records. Yo! We'll be right back. E questa, giusto per rimanere con il basso profilo, era God on the Radio dei Queens of the Stone Age. Tra l'altro, appunto, Michele qui mi stavamo parlando della almeno per me incredibile line-up che aveva questo disco. Beh, sì. Con personaggi, specialmente uno non avrei mai immaginato. Era un po', non so, come quando fanno la All Stars nell'NBA, no? Sì, cioè, sì, era proprio un All Star Game in questo caso. All Star Game, sì, al di là di Josh Homme, che è comunque il frontman dei Queens of the Stone Age da quando si chiamano Queens of the Stone Age, e poi alla batteria Dave Grohl, è già quello, nel senso, è una bomba. Che, appunto, che ritorna alla batteria, sì, sì, dopo essere passata alla chitarra nei Foo Fighters, sembra, mentre appunto nei Nirvana era un batterista. Sì, sì, sì, sì. Si vede che gli era tornato la voglia di battere le pelli. Ci sta. Che mi raccontavi che poi in quel periodo aveva avuto anche altri progetti, sì, da batterista. In quegli anni là, cioè ora chiaramente col beneficio della forbice dei 3, 4, 5 anni, venne fuori con i Queens of the Stone Age, poi dopo venne fuori il progetto dei Probot, dove c'era addirittura anche Lemmy, dei Motorhead e sempre Dave Grohl alla batteria, un progetto dove musica veramente violenta e pesante, però nel senso... Come ci possiamo facilmente immaginare, visto che c'era Lemmy di mezzo. Poi oltre a Dave Grohl qua c'è comunque Nick Olivieri al basso, che bene o male è stato presente a lungo nei Queens of the Stone Age. Poi dopo, come ti dicevo prima, non mi ricordo chi ha trombato la moglie di chi, però insomma diciamo che ci sono stati degli scazzi purtroppo per via di donne, da quello che so, poi magari se qualcuno vuole correggere faccia pure, perché... mandateci un messaggio sul pad per correggerci eventualmente, però... Sembra che fossero questioni sentimentali via, sì, dovute alla rottura di questo, sì, di questo supergruppo, perché poi quello che a me ha stupito più di tutti, sì, Dulcis in fondo, la seconda chitarra. E nonché anche voce, perché ci sono delle canzoni dove canta Mark Lanegan, appunto. C'era Mark Lanegan che a me... Cioè, sinceramente ha stupito, ecco, di ritrovarlo, sì, nella lineup dei Queens of the Stone Age. Sì, ripeto, io conoscendolo per via degli Screaming Trees e dei suoi lavori personali non avrei voce profondissima, non l'avrei accostato, insomma. Invece ma era che era il primo disco questo dei Queens of the Stone Age? No, se non sbaglio è o il terzo o il quarto, perché il primo è comunque non l'esordio. Queens of the Stone Age, poi c'è Rated R e forse c'è questo, forse è il terzo, mi sa. E quindi per questo terzo album avevano fatto questa... Anche qui correggetemi se non... Avevano fatto questa super formazione, quindi per questo... È venuta fuori da... Io suppongo che sia frutto di quelle desert session famose che Josh Homme fa da una vita. Un paio di dischi sono usciti l'anno scorso, se non sbaglio, due anni fa, delle ultime desert session, dove nella sua stanzina con lo studio di registrazione nel deserto invita personaggi. Sì, e poi ci gemma insieme. E ci gemma insieme e vengono fuori cose. Probabilmente sarà successa una roba del genere, non lo so, queste sono proprio supposizioni. Però mi piace. Ma noi sì, no, ipotizziamo tranquillamente, che problema c'è. Però vedo già piazzato sull'altro deck del giradischi, giusto per farmi bestemmiare un altro po', si diceva vinile bianco, si vede male le tracce, il prossimo vinile è addirittura trasparente, quindi insomma me lo vuoi proprio far evocare, ecco, questa è una visita oculistica, non è una trasmissione radio. Finisco la 40ª puntata di Basement e mi mancano due o tre diotrie in meno, probabilmente, però mi raccontavi, tutto è fatto con spirito di sacrificio, perché mi raccontavi appunto fuori onda anche di questo disco trasparente, che è notevole da quanto mi raccontavi. Notevole quantomeno per la storia, sì, sì, sì, che sì, mi hai raccontato dietro. Allora, noi, vabbè, io sono parte integrante di un piccolo, chiamiamolo collettivo, anche se era nata come un'etichetta discografica, poi si è trasformata sempre mantenendo l'entità di etichetta, ma poi diventando anche un'entità che sul territorio organizza eventi particolarmente carini, a mio avviso, dei festival. Assolutamente sì, posso confermarlo. E quindi, se posso dire il nome, comunque sì, certo, Santa certo. Valvola. Santa Valvola a Prat. A Prat. Spesso ci troviamo a organizzare concerti. E questa band è una di quelle che sono stato felicissimo di aver portato, non io personalmente ovviamente, non mi sto cercando di prendere i meriti, non vorrei essere frainteso, però sono una di quelle band che mi è rimasta veramente addosso, sia per la musica che fanno, sia per le persone che sono, e sono molto felice del fatto che nel corso degli anni, negli ultimi 3-4 anni... Stiamo parlando dei Delta Sleep. Ovviamente, sì, ovviamente no, non l'avevo detto, sì. Delta Sleep, band inglese. Negli ultimi anni hanno fatto diversi tour europei, nonché mondiali, Messico, Giappone, e diciamo oltre il Canale della Manica hanno veramente un bel seguito. Anche in Francia e anche in Giappone. E quindi sono molto contento per loro, anche perché col cantante ogni inverno mi ci sento e spesso, tranne ora in questa fase Covid. Che non se, perlomeno, come dicevamo prima, non prendi la tua bella tavolina sulle spalle e ti metti a camminare, a ciaspolare o a pellare. Però sì, d'inverno ci sentiamo spesso perché a lui piace fare snowboard, e come il buon... Dama qui accanto a me sa anche come dargli torto, appunto, sì. Con questa no, non con questa passione, ma con questa malattia, sì. Che quest'anno è ancora più malattia del solito. Sì, se avete dato un occhio a giro, se avete delle montagne a disposizione, ma l'anno che non ci portano su indipendentemente è venuto giù tanta di quella neve che quantomeno nell'Italia centrale sembra di essere in Alaska. Poi dice uno non deve, io ci provo, ce la metto tutta, però non ce la faccio, te lo dico. Ci vuole il calendario di Radio Maria dietro, ma perché tu ti dimentichi? No, l'ho finito. E vabbè, al di là di questo excursus montanario, mi piace, tra l'altro mi piace sempre metterlo ogni tanto nelle trasmissioni giusto per rimembrarmi, giusto per ricordarsi che forse il vaccino ci serve a noi, non è per il Covid ma è per lo snowboard. Esatto, paghiamoci. Esattamente. Però tornando appunto ai Delta Slimp, che dici? Facciamo sentire manda, certo. Questo pezzone, questo After Dark, sentiamoci appunto i Delta Sleep qui a Basement Records, naturalmente Radio Wombat. Adesso partirà After Dark. Loro sono sempre Delta Sleep qui a Basement Records. We'll be right back. Questa era After Dark, loro i Delta Sleep, appunto questo, dicevamo, fuori onda, questo mat rock con queste venature pop malinconiche. Sì, sì, sì, sotto certi aspetti... Molto, molto particolari, molto belli. Sotto poi, certi aspetti un po' emo per pure, sì, però... Sì, sì, per via della vena malinconica, sì, magari, sì, però... No, i testi sono molto molto... in stile emotional, cioè loro parlano di spesso di emozioni o di situazioni comunque emotivamente forti, e però ci abbinano questo mat rock molto pulito, molto tecnico, che vabbè, per non andare dentro ai tecnicismi, però riescono a fare una musica molto complessa e a farla scorrere molto bene. Questa è una di quelle cose che apprezzo tantissimo, quindi sì. Sì, appunto, anche perché non era facile innestare appunto queste venature melodiche in una base appunto mat rock, che appunto tempi spezzati, molto, cioè un tipo di post rock, diciamo, molto, sì, sì, legato, sì, sì, a tempi dispari, controtempi, con tantissime influenze jazz. Infatti la maggior parte dei pezzi mat rock sono strumentali, infatti, tra l'altro. Il cantante, cioè, tra l'altro, canta e suona mentre fa cose impossibili, perché... e vederli dal vivo è veramente una cosa molto bella. Hanno un batterista che è, secondo me, è un appassionato di Travis Barker, perché vederlo suonare sembra di vedere Travis Barker. E loro sono dei musicisti della Madonna, appunto, cioè diamine, bravissimi. No, ma si sente, sì, sì. Tra l'altro, si sente il tocco, dicevo prima, fuori onda, scrive su Dice, se non sbaglio, Dice, come siamo alla rivista, oddio, non mi ricordo più, vabbè. Su quella, e ha fatto anche un reportage molto bello su, purtroppo, la prima ondata di Covid nelle zone Bergamo. Già, mi raccontavi Milano, prima, quindi, fuori, cioè, onda. Lui è bello, bello dentro il mondo del giornalismo, oltre che della musica. E... No, sono un bel progetto. A me loro mi piacciono veramente tanto. Poi, nel senso, de gustibus, ovviamente. Però. Come sempre, però direi Delta Sleep assolutamente promossi a pieni voti. E vedo finalmente un vinile nero qua sotto, vorrei festeggiare questo evento, abbiamo un vinile nero. Non vorrei abituarmi così male, cioè, ormai. Ma poi, tra l'altro, suoniamo la prima traccia del disco, quindi nessun problema a posizionare la puntina né niente. E gruppo conosciuto, vedo anche qui, conosciuto nell'ambiente alternative, diciamo. Beh, certo, non siamo nel mainstream, come giustamente siamo qua a Radio Wombat, e quindi il buon Michele qui mi ha secondato, però diciamo due parole appunto su questo vinile che mi ha portato King Gizzard and the Lizard Wizard. Io penso che la prima cosa da dire sia imparare a pronunciare il loro nome, anche solo lo scioglilingua del nome della band. Porco zio, è difficilissimo, porca miseria. Poi, una volta che si impara a perlomeno a dire le prime tre parole del nome, sì, sì, cioè, no, poi va, poi va, cioè, darsi. Poi qualcuno, l'interlocutore capisce. Però loro sono state una band che io ho, tra virgolette, cassato a priori per l'enorme hype che si era creato, sì, è vero, l'anno in cui tirarono fuori 4 o 5 dischi, tra cui questo, e vedere una band che tira fuori tutti quei dischi di continuo ha esaltato praticamente tanti dei miei amici e compagni d'avventure musicali, chiamiamoli così, per non dire cosacce, però insomma. Però, quelle, insomma, quelle solo nel fuori onda. Diciamo che quando si crea troppo hype per un qualcosa, io tendo, tendenzialmente cerco di non infilarmici subito, lascio passare un po' di tempo. Poi quando vanno lasciate calmare le acque, sì. Allora valuto e ascolto. Ecco, loro secondo me sono una band che giustamente hanno creato un certo hype, una certa foga nella gente, perché effettivamente sono tipo due batterie, tre chitarre, un basso, sono un milione sul palco, fanno un bordello della Madonna e suonano veramente qualunque cosa gli si metta in mano. Questo disco, che è stato uno degli ultimi che ho sentito, perché l'idea che è, c'è alla base, cioè quella di suonare un album intero con le chitarre microtonali, cioè quindi accordate, esatto, sulla scala. Perché leggevamo prima, sì, le sì, note sì, di copertina, appunto, diceva sulle note un modo di suonare che ricorda molto la just intonation della musica contemporanea moderna, appunto per l'uso di queste chitarre microtonali, appunto, sì, sì, sì, e quindi dà questo effetto che non si può altro che ascoltare. Eh sì, effettivamente al primo ascolto dà quasi fastidio, ma il disco, se lo ascolti tutto, a un certo punto ci entri dentro e ti trasporta talmente tanto che quando finisce lo vuoi risentire. E è uno di quei vinili direi che è un segno determinante, sì, sì, della sì, qualità di un qualsiasi prodotto musicale, se ti viene voglia di riascoltarlo. Sì, assolutamente. Ed è uno di quei dischi che ho voluto veramente avere in vinile, perché è stato proprio una sorpresa. Quindi sì, andiamo. Rattlesnake dei King Gizzard and the Lizard Wizard. Qui a Basement Records, Radio Wombat. E dove se no? Come uno dei grandi classici, dicevo prima a Mitch, dei Basement, sbagliare i lati dei vinili, oppure sbagliare direttamente traccia. Dicevamo, questo è il primo disco nero, non si può sbagliare, e invece ho sbagliato ovviamente il side del disco. Questa non era Rattlesnake, ma era Sleep Drifter. Tra l'altro, pezzo bellissimo. Pezzo stupendo. E visto che ci è piaciuto, e mi è piaciuto particolarmente, e a questo punto io farei ascoltare anche. Sì. Appunto, siamo d'accordo. Non la rimetti, Rattlesnake? mettiamola assolutamente. Loro sono sempre i King Gizzard and the Lizard Wizard. Basement Records, Radio Wombat. Now don't stay, now don't stay. E questa era Rattlesnake. Finalmente il lato e la traccia giusta, incredibile, bellissima anche questa comunque, eh? Veramente. È un bel viaggione, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Mi sono particolarmente piaciuti questi King Gizzard and the Lizard Wizard. Anche, oltre al nome della band, anche proprio come suono, notevole, mi sono piaciuti davvero. Grazie Michele per averceli portati qua a Radio Wombat. Però del prossimo disco qua sul deck, appunto, mi raccontavi la storia di come ti è arrivato, eri perché eri a questo concerto. Sì, più che un concerto, era un festivalone bellissimo di musica elettronica che non so se facevano perché non l'hanno più fatto o hanno rifatto poi in seguito. Comunque si chiamava Density Festival a Foligno e se non sbaglio era il 2013 o 2014 l'anno in cui andai a questo festival. E come dicevo prima al buon Dama, erano gli anni in cui con diciamo la band in cui suonavo avevamo deciso di provare a fare cose alternative e venne fuori un progettino molto carino in cui suonavamo elettronica pure noi di base, tutto suonato dal vivo, con batteria vera, sintetizzatori veri, niente roba lanciata, niente computerini. E andammo appunto al Dance City perché questi Vessels c'erano più o meno piaciuti, chiaramente sentendoli dai vari bandcamp o i canali online che andavano all'epoca. E niente, in realtà bandcamp va ancora, sì, eh? Sì, sì, sì, sì, no, anzi funziona. Anzi, è quello che a detta dei musicisti è quella che paga più le royalties. Ah, probabilmente, allora forse se tra YouTube, Spotify, dice, io non ricordo se bandcamp è quella più, diciamo, eticamente corretta tra i vari canali di streaming. Sì. Se ci carichi la tua musica, comunque loro ti prendono pochissime commissioni. Cioè, no, è onesto. È l'esatto contrario di Spotify, dove carichi la tua musica infatti, e non ti arriva niente. Volevo infatti le conferme da qualcuno molto più del settore di me, di queste voci. Sul Bandcamp puoi caricare anche la possibilità di vendere merchandise. È strutturato bene per le band. È molto carino come portale. Consigliatissimo per andare a scoprire varie cose musicali underground. È veramente... quello più per il rock, secondo me SoundCloud ancora, per la musica, elettronica ambient, chill out, ci gira tanta su roba. SoundCloud e Mixcloud, poi sono la stessa cosa. E niente, loro me li sono beccati dal vivo, sono i Vessels, sono una band che ho scoperto in seguito poi essere partiti da una storia di post rock stile Mogwai, non so, robe del genere, e evidentemente qualcuno di loro ha scoperto poi che esistono dei synth nel mondo, li ha suonati e si sono ritrovati a fare della musica molto bella, completamente suonata dal vivo e interamente, cioè veramente una bomba. Sono in sei anche loro, se non sbaglio. Anche loro un bel gruppone sopra il palco. E a Foligno me li sono beccati al tramonto delle 7:30 con 50 persone a vederli in un palazzo storico, dentro la corte di un palazzo storico di Foligno. È stato, cioè, oltre la musica decisamente bella, è stato proprio uno scenario notevole. Mamma ecco. mia, notevole, sì. Notevole. Allora andiamoceli ad ascoltare questi Vessels. Questa è la prima traccia del lato A del loro vinile. Questa è Vertical, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. E questi erano i Vessels, appunto. Bellissimo questo disco. Abbiamo dato proprio lo stacco con questo disco e mi hai fatto entrare appunto proprio nella questione elettronica che dicevamo poco prima. Sì, è un disco suonato da musicisti che suonano, però di base sembra musica che potessi tranquillamente sentire sì, appunto, a una qualunque serata. Boh, ora dice tecno è un parolone, però ha un DJ set di un... Ricordo e ribadisco che è tutto suonato su sì, questo disco. Sì. Cioè, gli arpeggiatori, ok, che il synth te li può fare lui se premi tre note, però cioè, ci può chi le preme. Bisogna sapere anche sì, quale tre tasti premere, insomma. No, ecco. No, molto... Loro sono... Li consiglio quasi sempre a tutte le persone che apprezzano un po' la parte nerd della musica, cioè non solamente l'ascolto, ma anche scoprire cosa c'è dietro la produzione della musica stessa. Quindi... Mi hai trovato, appunto. Diciamo che mi hai trovato e hai scelto il disco giusto. Perfetto, però già qui pronto sotto di me vedo il prossimo vinile, questo... Un nome, forse tra quelli che mi hai portato stasera, al di là dei Queens of the Stone Age, loro forse sono quelli tra più son conosciuti. Sono grossi anche quando li senti dai vivo. Assolutamente, una band storica. Sì, sono i Mogwai. Sono i Mogwai, che raccontava appunto a Michele che avevo perso di udito, perché non so se si può dire di vista, appunto da un po' di anni ero rimasto un po' indietro con i loro lavori, però appunto raccontami un po' qualcosa di questo vinile che mi hai portato, sì, dei Mogwai, ricordo. Come ti accennavo prima, io sono un po' quello del se una cosa non piace a tutti, allora forse a me piace. Questo disco è Rave Tapes e diciamo è uno forse dei dischi meno blasonati dei Mogwai, perché non è il dilatatone, lento, tristone, malinconico degli esordi della carriera. Ci sono, appunto, anche per ricollegarsi un po' ai Vessels, tanti inserimenti di strumenti di synth di base, strumenti che non sono corde o percussioni. E devo ammettere che non è il disco dei Mogwai che dall'inizio alla fine scorre bene. Ci sono, per me, per il mio gusto, un paio di tracce nel mezzo che stonano proprio di brutto. Però ci sono dei pezzoni che ti fanno dimenticare quelle due cose un po' più messe quelle messe due lì. Cadute di tensione, sì, via, sì, diciamo. Sì. Il disco, la canzone che ci andiamo a sentire adesso, penso sia la più breve del disco. A vedere dai solchi sembra proprio di sì. Però è, secondo me, una delle più significative, cioè, poi sono gusti personali come sempre, però mi fa veramente godere forte ogni volta che la sento. E allora andiamocela ad ascoltare questa Hexon Bogus dei Mogwai, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat, e dove se no. c'eravamo persi tra le note dei Mogwai, giustamente. In piedi, lontano dai microfoni. Come... eravamo qui ad ascoltarceli. Potevamo finire tranquillamente il disco fosse stato per noi, ma penso che non abbiate difficoltà a immaginarvelo. E appunto poi adesso qua pronto, già pronto sul piatto, quest'altro vinile di cui fino adesso mi hai appunto... ti sei prodigato in elogi. L'ho millantato bene. E no. Quindi almeno un riassunto per i nostri ascoltatori, sì, ce lo devi, devo allora, dire. Questo innanzitutto è una band di quelle giganti. Non so se a livello dei Mogwai, ma comunque per me sono una super band. E... diamine. I Black Angels, appunto. E il disco in questione... è Death Song, che se non sbaglio dovrebbe essere cronologicamente l'ultimo uscito. Adesso quello che dicevo appunto 2017, sì, leggo, sì, sul centrino, sì, sì, sì, è 2017. Quello che stavo dicendo appunto al buon Dama è che io da piccolo nerd della musica generalmente non amo comprare in vinile i dischi che in versione digitale suonano tantissimo. Non so, io prendo sempre esempio i Foo Fighters, super band, super suoni, tutto sparato in faccia che ti schiaffeggia, quindi effettivamente complimenti al master, però in vinile non si può creare quella roba lì perché manca lo spazio fisico. Il vinile è una puntina che vibra su un'incisione e su un solco. Su un solco. E il solco può avere quella dimensione lì, né di più né di meno. Quindi, ecco, Death Song, questo disco qua, è uno di quei dischi che io ho ascoltato in versione digitale, mi è piaciuto tantissimo. L'ho comprato più perché ormai ce l'avevo in mano che per voglia di comprarlo, vi dico la verità. Cioè ormai l'avevo preso in mano, ho fatto ma sì, buttiamo pure questo nel mezzo, l'ho messo a casa sul piatto e mi ha staccato la pelle dal viso. Cioè è meglio sul vinile che su qualunque altro supporto digitale, e questa è una cosa che a me fa veramente piacere, perché non è facile riuscire a far suonare, cioè nonostante abbiano dei suoni bellissimi di suo, sono addirittura migliori. Piccola cosa da nerd della musica, è stato registrato dallo stesso che ha registrato Nevermind di Nirvana, no. Quindi dietro sicuramente c'è stato un gran manico, non solo la famosa Hazzimma, come direbbero, diciamo, non è stato Napoli. Registrato da mio cugino. Esatto, c'era la famosa Hazzimma dietro il banco dei controlli. E quindi andiamoci ad ascoltare questo brano di apertura del primo lato di questo album dei Black Angels. Questa è Currency, qui a Basement Records, Radio Wombat, e dove se no. ci risiamo, questa era Currency dei Black Angels. Spam. A me mi fanno godere loro, ragazzi, io non ci posso belli, far niente. Belli, belli, concordo pienamente. Sicuramente un gruppo da indagare per me, che non li conoscevo e che me l'hai fatti conoscere. Sì, sono, ti ripeto, i primi lavori loro sono molto più similari a... penso anche loro stessi si ispirano ai 13 Floor Elevators, quindi... Psichedelia texana a manetta. Sì, sì, sì. Però ecco, diciamo che i primi dischi sono molto improntati su un rimembrare cose del passato. È qua. Su un rimembrare cose del passato. Aspetta, ci stiamo incasinando perché mi sta mettendo il vino nella carta sbagliata. Eia. Comunque, a parte questo disco invece hanno sfoderato questi chitarroni di Obono violenti, mantenendo la vena psych rock, che a me è un connubio che veramente mi fa godere forte, che devo dire. Giusto, giustamente. Concordiamo. E poi vedo un altro vinile che mi hai molto decantato stasera, con un artwork, dicevamo, sì, incredibile, perché dovreste vedere appunto la bellezza, anche l'unicità dei vinili, e anche vedere appunto il lavoro che c'è nella fattura delle copertine, di tutti è un super degli lavoro. Interni, questo è questo è quasi un libro, direi, sì, più, sì, che sì. Più che un vinile. Sì, parliamo degli Atoms for Peace, che è un progetto, chiamiamolo parallelo, anche se ha visto la sua nascita e la sua morte con questo disco. Side project. Sì, side project di i due personaggi più famosi all'interno del progetto sono Tom York dei Radiohead e Flea dei Red Hot Chili Peppers. Comunque ci sono altri personaggi di spessore all'interno del disco che hanno suonato. È un disco del 2013 ed è un po'... io lo vedo un po' un preambolo a tutto quel filone Radiohead successivo, dove poi ci sono sempre meno chitarre e sempre più macchinette, e quello, cioè macchinette le chiamo così per... che è il mio periodo preferito, tra l'altro, dei Radiohead, Kid A, Amnesiac. Questo viene dopo Kid A, Amnesiac sicuramente. E Ok Computer era il trittico elettronico, il triunvirato della discografia dei Radiohead, diciamo il trittico elettronico, anche, tra l'altro il mio preferito della loro discografia, se devo essere sincero. Ma sono tutti dei grandi dischi, cioè allora loro sono una band che veramente ha saputo fare musica, sì, in generale. E comunque niente, questo disco qua è un disco che io ho preso perché... di base mi piace tutto l'album, ma tutto l'album mi piace molto. È stata una scommessa, l'ho preso più per l'artwork, perché una volta che l'ho visto ho detto cavolo, questo è un capolavoro, anche solamente da tenere in casa, quasi da incorniciare. Anche solo, appunto, sì, come anche solo come copertina, ecco. Oh, bellissimo. Cioè, è come il lavoro, anche solo che c'è sulla copertina. Ora, non è possibile ancora farlo vedere in radio, ma basta googolarlo, sì, sì. E andatevelo a vedere. E niente, la cosa bella di questo disco è che a differenza di quello che abbiamo sentito adesso, dove tutto è enorme nonostante sia un vinile, qua la prima volta che l'ho sentito mi ha dato l'effetto di essere in sala prove con loro, cioè è un disco talmente naturale e senza niente di gonfiato, è lì. E cazzo, sono stato un'ora ascoltando il disco dove ho detto boia, si sente le mani de scorrere sul manico della chitarra o del basso, quindi cioè è proprio è come se l'avessero registrato e lasciato in quel modo, e a me questa cosa mi ha fatto impazzire. Poi diciamo quasi in presa, anzi neanche quasi, proprio in presa, sì, diretta, sì, sì, sì. con poca post produzione, sì, buona la prima, take one, sembra così, poi nel senso adesso lo ascoltiamo, quello è quantomeno l'impressione che hanno lasciato dopo la registrazione. Altra particolarità di questo vinile è che appunto è un 12 pollici, ma come c'era già successo qui a Basement Records con delle pubblicazioni funk, però in questo caso in quel caso è un questo è un 12 pollici, quindi un grande formato, però invece di essere nel classico 33 giri è a 45, però fortunatamente lo hanno ben impresso. C'è un 45 grosso. C'è un 45 grande quasi quanto metà del centrino, potremmo dire proprio a prova di Basement proprio. Nel senso, e se non ce la fai a capirlo nemmeno così, fatti due domande, perché cazzo, ecco, fai te. E questi sono gli Atoms from For Peace con Unless. Questo è sempre Basement Records, Radio Wombat. Yeah. E questi erano gli Atoms for Peace. For Peace. Di Tom York, Flea e il resto della compagnia cantante. Bellissimo disco. Dicevamo, effettivamente ricorda tantissimo il trittico elettronico dei Radiohead. Se senti la base sotto, appena parte lo ricolleghi immediatamente a quel periodo lì, o almeno a me è capitato così, ecco. E poi vedo già pronto su quest'altro deck l'album che mi avevi detto lo dovevi portare. Sì, sì, no, questo disco comprato a un mercatino al Caracol a Pisa, ti dico la verità, da un ragazzo che poi ho scoperto essere un MC degli anni d'oro italiano, anche lui sulla quarantina. Abbiamo parlato un sacco, insomma, è stato molto bello. E questo disco faceva parte della sua collezione personale addirittura. Ed è praticamente una prima stampa americana di Niggas for Life degli NWA. Dei Niggas with Attitude. Yes. Una delle band rivoluzionarie, appunto, dell'hip hop americano. Sì, sì. La band che scrisse Fuck the Police nel periodo in cui, appunto, negli anni 80, fine 70, primi 80, in tutte le grandi città americane c'era una forte pressione sociale, ecco, sul popolo nero. Mi hai tolto le parole di bocca. Da parte poi dello stato di polizia. E insomma, se vi è capitato, magari guardatevi anche Straight Outta Compton, che bellissimo, è fatto molto bene, devo bellissimo dire. Pensavo fosse una terronata americana di quelle paurose, invece è fatto, è sempre bello tamarro. Beh, è sempre ovviamente, però è fatto molto bene, è una bella, racconta molto bene la storia di quegli anni. E a livello musicale penso che un micro spazio all'hip hop vero, alle radici del rap, ci sta sempre. Poi anche qui, un po' come dicevamo all'inizio per la formazione del disco dei Queens of the Stone Age, cioè qui i Niggas with Attitude sono un po' un all-star game dell'hip hop. Anche se ai tempi non erano all-star, quella la cosa No, ai tempi ancora non erano all-star, ma insomma... Vabbè, a partire lo diventeranno da lì a pochissimo, sì. Cioè... Giusto per dire un attimo chi c'era dietro alle produzioni di Niggas with Attitude, se il nome Dr. Dre vi dice... Un giovanissimo Dr. Dre, una delle sue prime produzioni. Poi sappiamo tutti la carriera stellare che ha avuto, poi MC Ren, c'era Ice Cube, se non sbaglio, Niggas with Attitude. No, ancora non lo erano, ma poi verrà considerato, appunto. C'era Eazy-E, che poi se non sbaglio morì lui. Chi è di loro che morì per AIDS? Uno di loro morì per una malattia di cavolo, sì. Comunque... Non ricordo, non sono così informato. Vabbè. Io me lo ricordo perché ho visto Straight Outta Compton. L'hip hop a me piace molto, mi piace il fatto che sia un vero e proprio movimento culturale. Cioè, assolutamente, quella sì. È la cosa più affascinante. Sono stato addirittura a Bologna a vedere Grandmaster Flash l'anno 2019, dicembre, novembre, venne... Ah, quindi... Sì, allora. Sì, venne lì e si partì di martedì sera al volo comprando i biglietti all'ultimo. Molto bello, è proprio bello l'ambiente dell'hip hop. Poi non sono un cultore, quindi probabilmente chi è all'ascolto ama mi starà infamando di brutto, oppure, chiedo scusa. Oppure starà infamando entrambi, anche perché, appunto, se siete appassionati di hip hop non posso che rinnovarvi l'appuntamento qui sulle frequenze di Radio Wombat con sessioni notturne che, appunto, vi terranno aggiornati sulle ultime uscite hip hop e su tutto quello che riguarda l'ambiente dell'hip hop, appunto. Però visto che mi hai portato questa stampa americana di un discone come questo, sì, non è che non potevamo metterlo. E poi, appunto, abbiamo scelto

for life. I'm a nigga, he's a nigga, she's a nigga, we some niggas, wouldn't you like to be a nigga too? Questo finale fantastico, veramente grandi, veramente grandi niggas with attitude. Ci stava benissimo questo pezzo hip hop storico. Perfetto, prima edizione, vinilone. Sì. Yo. Fantastico, vinilone, veramente. Bello distrutto, cioè, però chi se ne frega. È una di quelle cose che è proprio bello avere in casa. Forse non hai presente che vinili veramente distrutti ho mandato in onda qua su Io ti credo. Credimi, veramente. Roba che mettevi la puntina su un lato e non suonava nemmeno. su un lato e non suonava nemmeno. Prendi e giri l'altro lato e si sente a malapena. O roba completamente piegata. Cioè, abbiamo fatto anche della sperimentazione qui a Basement, non è che abbiamo messo solo semplicemente i vinili, cioè in certe puntate di vinili veramente di recupero dalle cantine abbiamo quasi sfiorato la musica concreta e l'avanguardia, ecco, più che i vinili di recupero. Una performance teatrale di Amine. Esatto, concettuale, sì, diciamo. Sì. Un concept. Esatto. Bellissimo. E poi vedo che mi hai proposto che probabilmente sarà l'ultimo vinile di questa puntata di Basement. E narrami un po' di questo vinile, Ai tempi in cui a Prato c'era Blackout, Controsenso, agli esordi, chiamiamoli così, no? Quindi si parla sempre di un periodo intorno al 2010, 2012, quegli anni là. Un'estate, Daniel Bondi, che ai tempi era il, direttore artistico del Controsenso Club di Prato, fece un estivo in dei giardini in zona Iolo, e decise, con mia grande felicità, di chiamare appunto questa band, che sono i Civic, un duo che io non ho mai capito se sono francesi, spagnoli o inglesi, perché dettagli non lo so. Ci ho parlato anche tutta la sera, ma purtroppo diciamo che ero in uno stato di incapacità grossa. E quindi già se mi dici se non hai capito di che parte del mondo erano e ci hai parlato una sera intera, però facciamoci due domande. Quello che è successo quella sera è che la cosa divertente è che loro erano in tournée da un pezzo, era una delle ultime date che facevano e avevano l'ultimo vinile del disco. Io, da buon briaco di turno, non è che ho fatto troppe domande, ho fatto shut up and take my money, cioè vinile, soldi, grazie. Daniel Bondi, che è tra l'altro un mio carissimo amico, stava finendo di sistemare il locale, noi eravamo rimasti a chiusura con la band, a chiacchiera, a bere l'ultima birra, lui finisce di sistemare tutto e mi ricorderò per tutta la vita la scena in cui gli ringrazia, educatissimo, tra l'altro, nel senso una persona che sa come ci si comporta, e con la sua che lì per lì non te l'ha fatto notare. No, la sua situazione va a chiedere un disco alla band e la band gli propone un CD. E lui giustamente fa notare che aveva visto un vinile prima. E la band, c'era. E la band gli fa, l'ultimo l'abbiamo dato a lui, indicando me, ecco. È da quel giorno che io non posso mai nominare questo disco, perché Senza nominare lui, anche perché probabilmente mi darà una coltellata prima o poi e me lo ruberà. Però sì, si sono divertiti un sacco. Bello. E quindi questi sono i Civic, visto che hai preso il disco, ti erano particolarmente piaciuti, immagino. Mi piacevano già da prima e sono molto carini. Strumentali, chitarra, batteria e drum machine. Ci andiamo ad ascoltare Lights on a Leash. La prima del lato A? La prima del lato B. Ah, prima del lato B, vedi? Allora l'avevo messo giusto. Perfetto. Civic con Lights on a Leash, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. questi erano i Civil Civic, l'ultimo vinile del recupero vinilico di stasera, portato qui dal buon Mitch. E come di consueto, prima di arrivare ai saluti, volevo ricordare i prossimi appuntamenti per la giornata di domani qui sulle frequenze di Radio Wombat, quindi il palinsesto domenicale di Radio Wombat, che inizierà alle 10 la mattina con Container, il contenitore di tutti gli interventi, di tutte, diciamo, le interviste o stralci di trasmissione che non sono riusciti a trovare una collocazione nel palinsesto, e quindi si trovano tutti qui contenuti nel Container della domenica mattina. Poi a mezzogiorno, la diretta successiva all'ormai consueto appuntamento del pranzo della domenica con il notiziario anticlericale. Poi sempre all'ora di pranzo alle 13 con la replica dell'ultima puntata di Coccole al Silicio, per poi proseguire con la replica del programma che ormai ci aggiorna sulla situazione che stanno vivendo al di là dell'oceano in America, quindi con le ultime news di WookWops. Poi il palinsesto ovviamente prosegue nel pomeriggio con la diretta successiva delle 15.30 con Poyuit, la trasmissione diretta emanazione del Festival della Letteratura Sociale della Polveriera Spazio Comune, per poi proseguire con il ritorno della domenica, del consueto appuntamento domenicale con la musica classica e la fuga del gatto, come amo dire sempre, il perfetto ripiglio pomeridiano dalle fatiche del fine settimana, con l'ora e mezzo di musica classica, come sempre puntualmente proposta da Bloody Mary e dalla Virgi, che come sempre saluto. Poi proseguirà il palinsesto con la successiva diretta, il palinsesto domenicale di Radio Wombat è particolarmente fitto, con l'inizio alle ore 7, alle ore 19, con l'arte del vizio, anche qui sempre uno spin-off di Frittole e di Radio Contado, da non perdere assolutamente, una delle new entry più calde del palinsesto di Radio Wombat, e il palinsesto domenicale appunto si conclude con la replica dell'ultima puntata andata in onda di Uru, il consueto appuntamento settimanale con le notizie dall'Africa e da tutto il continente africano qui per Radio Wombat. Un saluto anche a Uru, un calorosissimo saluto a loro, e come a proposito di calorosi saluti, come non dare un caloroso saluto qui anche al prode Michele, al prode Mitch. Grazie. Che mi ha portato appunto questo tesoro vinilico da farvi ascoltare stasera. Spero che l'abbiate apprezzato quanto l'ho apprezzato io. Davvero un sincero ringraziamento per essere passato qui da Radio Wombat. Spero che sia la prima volta di quantomeno di un ritorno. Ah, sarebbe fantastico. Ringrazio io Radio Wombat, tutto il collettivo che gestisce la radio. Ringrazio te, caro Dama, che comunque conosco anche per altri motivi. Ma è stato un bellissimo momento. E per altre serata. Altitudini, direi. È stato un bellissimo momento, una bellissima serata, e come già ti avevo detto, quando si parla di musica a me mi trovi sempre disponibile, perché è una passione. Poi appunto che mi è stato qui da una vita. È stato incredibile perché appunto ci conoscevamo già da tempo per altri motivi, poi appunto arrivati un giorno abbiamo detto ma allora sei e quindi dalla dama da Radio Wombat porta il buon Mitch dal Santa Valvola, è andata così, sì. Davanti ai microfoni di Basement Records. E speriamo nella prossima sarai sempre il benvenuto. Spero anch'io, presto, dai. E buon proseguimento di sabato sera e di fine settimana, sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat. Un abbraccione virtuale a tutti gli ascoltatori e ci riaggiorneremo settimana prossima, sempre in diretta il sabato alle 22:30. Radio Wombat! Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore.